Omi con Chill Leader qui su Radio Stonata, la prima canzone ad aprire l'appuntamento di questa sera della Suite Stonata è giovedì. E come potete aver letto sulla nostra pagina Facebook, il nostro primo ospite, che ormai non è un ospite, è il nostro inviato di eccellenza, Flavio Laggia di nonsoloturisti.it. L'avevamo lasciato a Civita, ma questa sera dove ti ritroviamo, Flavio? Ciao, buonasera e ben ritrovato innanzitutto. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Sono già di nuovo in viaggio, ho lasciato le cime battute dal vento del Tondino e della Calabria, mi hanno invitato qui a Firenze, ne ho approfittato subito per fare una gita in questo bellissimo capoluogo toscano e adesso siamo già alle prese con altri argomenti, con altre storie. Sono ospite di Viaggi e Avventure del Mondo, un'agenzia turistica molto particolare, unica nel suo genere, perché innanzitutto per la predilezione, per la cura con cui seleziona attività, mete, operatori con una grande attenzione verso l'ecosostenibilità, il rispetto delle culture, l'impatto ambientale, il coinvolgimento degli operatori locali, quindi anche dell'economia locale, dei posti in cui porta i suoi ospiti, i suoi viaggiatori. E poi perché è animata da una squadra eccezionale di persone con una grande passione per viaggiare, che gli operatori turistici in realtà hanno ben poco, perché ognuno dedica a questa attività il tempo che riesce a scappare dal suo lavoro quotidiano, però con grande passione e dedizione portano le loro esperienze, le loro conoscenze a disposizione dei gruppi che accompagnano poi in ogni angolo del mondo. Mm-hmm. E qui a Firenze c'è una sezione, una squadra di queste persone eccezionali che periodicamente si incontra per offrire agli interessati e curiosi delle esperienze, dei racconti di chi viene invitato di volta in volta con foto, video e quant'altro. E io nel mio piccolo, molto umilmente, ho accettato di venire qui per raccontare un pezzettino della mia Africa, pur senza essere mai diventato un esperto in niente, però siccome cioè il retaggio del giornalista, però l'unica di cui noi giornalisti siamo capaci, cioè intertandoli con parole e usando il lavoro degli altri, convincere queste persone di averci capito qualcosa. Quindi tu questa sera farei questo intervento, mi pare di capire. L'intervento di stasera è incentrato sull'Africa e in particolare sui mercati. Il mercato è da sempre un'icona delle relazioni, degli incontri tra agenti e persone, delle relazioni umane, da sempre al centro della vita quotidiana di ogni cultura e società. Lo è in particolar modo in quelle regioni, in quelle città in Africa che si sono portate un po' stancamente, un po' tesamente al passo coi tempi, che sono rimaste un po' nella loro totalità e che quindi nel mercato intrecciano anche relazioni personali e ancora, come lo era una volta da noi, ma sempre di meno, il centro vitale, pulsante della comunità. Con 7.000 miglia lontano, il progetto di Giuliano Radici, che ci ha portato intorno al mondo, e nel mio caso in particolare da Città del Capo a Malindi in Kenya, di mercati ovviamente ne abbiamo passati a gran numero, piccoli, grandi, caotici, semi dimenticati nel deserto. Dal momento che la finalizzazione di 7.000 miglia lontano, averla proprio in occasione in contemporanea con l'Expo di Milano, che verte, come tutti sappiamo, sul cibo, sull'alimentazione, anche noi, mentre eravamo in giro a catturare foto, immagini, racconti delle persone che incontravamo, avevamo una grande attenzione anche per l'aspetto dei cibi, degli alimenti, del food, che ovviamente occupa una parte preponderante in tutti i mercati, di tutte le società, di tutte le culture. Uh-huh. Mi ricordo ad esempio bellissimi i mercati del pesce, con grande soddisfazione del nostro fotografo Luciano Barbellini, ogni volta che potevamo lo tiravamo giù dal letto all'alba per mandarlo a testimoniare, a documentare questo evento molto evocativo dei pescatori che alle 7, alle 8 di mattina arrivano con le reti sulla spiaggia e cominciano subito ad allestire i loro banchetti, oppure senza alcun sostegno, a vendere semplicemente il pesce ai passanti o in modi ancora più elaborati. Uno dei più carini, dei più interessanti a cui abbiamo assistito è il mercato del pesce di Bagamoyo, che è una piccola, insomma, una media cittadina sulla costa della Tanzania, a una settantina di chilometri a nord di Dar es Salaam. E noi passeggiando su questa spiaggia a un certo punto ci imbattiamo in questo cerchio di persone, proprio un gruppo di signore, di donne sedute a cerchio sulla spiaggia. Ci avviciniamo e vediamo che un po' alla volta i pescatori si mettono in mezzo al cerchio con il loro sacco, e dal sacco tirano fuori una volta i loro prodotti, il loro pescato, oppure altri sacchi per proporre un tot quantitativo di frutti di mare o pesciolini. Ed è un asta praticamente, Vettel, un asta, le signore intorno al cerchio facevano la loro offerta e poi la più convinta, la più ben disposta si aggiudicava il prodotto, si giudicava il premio. E noi siamo rimasti lì ad osservare finché il buon vecchio Giuliano non è riuscito ad attirarsi le ire delle signore fotografandole un po' con un po' troppa convinzione, e siamo ritirati in fuga prima di imbatterci nel loro linciaggio. Flavio, io ho una domanda per te. Se qualche nostro ascoltatore in questo momento si trova a Firenze, può venire a presenziare, a vederti in questo che stai per andare a fare, oppure è ristretta a un determinato cerchio di persone? No, l'evento è aperto a tutti. Tra poco comincerà l'aperitivo con prodotti della delizia culinaria locale, buon vino, e dopo l'aperitivo ci sarà l'appuntamento. E adesso, siccome io sono una capra e ne ho visti un po' troppe di posti per ricordarmi, me lo faccio dire subito da qualcuno. Dove siamo? Siamo grande. Isolotto, biblioteca Nova dell'Isolotto. Wow, grande Flavio, hai pure l'inviato, cioè fermi le no, sei un fantastico. Quindi se non hai altro da aggiungere, io ti lascio ai tuoi impegni, Flavio. Assolutamente, c'è un impegno importantissimo con un bicchiere di vino che mi sta aspettando almeno 4 minuti, non vorrei farlo attendere. Ok, grazie Flavio, ci sentiamo martedì prossimo da Civita. Sì, sarò di nuovo a Civita e ci sentiamo da lì. Grazie a te, Beppe, buona serata a tutti. Ciao. Ciao.